la prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Mio fratello, che guardi il mondo e il mondo non somiglia a te. Mio fratello, che guardi il cielo e il cielo non ti guarda. Siamo in Sud Sudan, dove la pace è sempre in bilico, dove tutto sembra apparire senza una regola. Se così si può definire un paese dove gli adulti reclutano i bambini per farli divenire soldati. L'anno scorso i morti sono stati migliaia. Tutto si è svolto nel più completo silenzio della stampa internazionale. Questa è la storia di Kiros Aregawi e di Gabriel Ilaire, due maestri impegnati con una ONG e che un giorno, per caso, si sono ritrovati a dover salvare la vita a centinaia di persone. Questa è la loro prima volta. I'm currently in Juba. Yeah. In Juba, South Sudan. Io in questo momento sono a Juba, Sud Sudan. In questo momento la situazione nel paese è carica di speranze perché il cessate il fuoco sta reggendo. Molti sudanesi sono speranzosi davvero perché si sta andando verso un processo di pace che porti a trovare un accordo fra le due fazioni che nel corso di questi ultimi tempi hanno portato guerra e distruzione nel paese. Un conflitto che non ha numeri esatti, sai. Non sappiamo davvero quante persone siano state uccise, né quante ferite. Anche perché il paese vive in una condizione di arretratezza e non esiste la possibilità di dichiarare la nascita, non esiste l'anagrafe. In molti villaggi sono stati uccisi donne e bambini senza che se ne avesse notizia. In ogni caso, la stima che possiamo fare è che in questi ultimi mesi di guerra siano state uccise 10.000 persone. Per altre organizzazioni esterne al paese si parla invece di 20.000. Tra le migliaia di sfollati, violenze continue, Kiros e Gabriel continuano a lavorare a un progetto di educazione. La scuola, nella quale Gabriel Ilaire insegna, è formata da una sola classe, popolata da decine di bambini che vanno da lui sorridendo. La situazione però nel paese è drammatica. Yeah, actually it was on 18th of February when the fight. Beh sì, io sapevo perfettamente dove stavo andando e cosa avrei incontrato. C'è stato un momento, quando è stato firmato il cessate il fuoco, in cui ho provato una gioia incredibile, mista al timore di provarla. Perché prima di questa tregua, devi credermi, le condizioni in cui vivevano le persone era terribile. Mancava tutto. Ogni settimana i guerrieri arrivavano a saccheggiare i villaggi. Molti abitanti venivano uccisi, succedevano cose terribili, difficili da raccontare. I bambini venivano uccisi o portati via per farli diventare soldati. Sai, è difficile spiegare. Arrivavano così, con i fucili puntati, e sparavano in mezzo al villaggio. Noi abbiamo provveduto a far allontanare molte famiglie. Le abbiamo portate in Malakal, dove c'era la sede dell'ONU. Abbiamo portato un sacco di bambini in questo campo. Ma non siamo riusciti a portare tutti. Anche questo è difficile. È difficile spiegare a un gruppo che dovrà restare lì, in balia dei saccheggi e della violenza. Come fai a dire, voi dovete restare qui? L'unica cosa che ti chiedono le mamme è di salvare almeno i bambini. È un'esperienza molto difficile da raccontare. Per questo sono contento ci sia una tregua. Si tratta di un conflitto complicato in cui non si conosce bene chi combatte chi e per cosa. L'unica cosa è che dopo questo conflitto noi abbiamo migliaia di sfollati. Persone che hanno camminato giorni e giorni per mettersi in salvo. Sai, qui le strade praticamente non esistono. Non ci sono vie di comunicazione, sistemi di assistenza medica. Cosa succede? Succede che molte persone che si sono messe in cammino sono morte durante la strada. Capisci? Riesci a immaginare? Una mattina, nel villaggio sudanese nel quale lavorano Kiros e Gabriel, arriva un gruppo di miliziani armati, rubano cibo e qualsiasi cosa possa loro servire, e picchiano, minacciano. Soltanto due settimane dopo ritornano. Questa volta, racconterà Gabriel, non c'era più niente da rubare. A noi dell'ONG, continua, ci hanno detto che avevamo 20 minuti per scappare. Pensavano che avrei lasciato i miei bambini e sarei fuggito. Ma i bambini piangevano e io sono fuggito con tutti loro. Sono nato e ho lavorato in ogni paese e ho difeso con fatica la mia dignità. Sono nato e sono morto in ogni paese e ho camminato in ogni strada del mondo. Che vedi, mio fratello, che guardi il mondo? Il mondo non somiglia a te. Mio fratello, che guardi il cielo, e il cielo non ti guarda. Come ha fatto a salvare i bambini? Come ha fatto a fuggire? Con quale forza? È il centro di questa storia che ha per personaggi due eroi rimasti sconosciuti a quasi tutti noi e che per caso abbiamo incontrato. Una storia che continua tra pochissimo. Mio fratello, che guardi il mondo, e il mondo non somiglia a te. Mio fratello, che guardi il cielo, il cielo non ti guarda. Se c'è una strada sotto il mare, prima o poi ci troverà. Se non c'è strada dentro il cuore degli altri, prima o poi si traccerà. La prima volta. Somehow on the way, like a footstep in the snow, like a mountain lights the skyline, you will realize that you will go. La storia di oggi è la storia di un gruppo di bambini destinati a morire, ma che grazie al loro giovane maestro sono riusciti a farcela. Siamo in Sud Sudan. L'episodio che vi narriamo avviene pochi giorni prima della firma del cessate il fuoco nel paese. Questa che vi raccontiamo è la prima volta di un uomo, un ragazzo, che davanti alla scelta di salvare se stesso o salvare un'intera classe di bambini, rischiando la vita, ha scelto quest'ultima possibilità. La storia che vi raccontiamo ci porta a Bor, dove si trova il campo delle Nazioni Unite in Sud Sudan. È lì che una mattina di aprile sono arrivate centinaia di persone per salvarsi da un gruppo di giovani armati. Chi non è riuscito a mettersi in salvo è stato ucciso, con esecuzioni sommarie per strada. Le vittime sono soprattutto bambini e donne. Gabriel Ilairel, al momento dell'attacco, si trovava nel campo. Li ho visti arrivare, armati, ci racconta. Hanno iniziato a sparare in mezzo alla gente, donne, bambini, anziani inermi. Non abbiamo potuto fare altro che correre, ma non tutti si sono salvati. Kiros Aregawi, un maestro etiope che da anni lavora per una ONG in Sud Sudan, racconta che l'attacco alla base di Bor è stato compiuto da persone di etnia Nuer, che formano una confederazione di tribù dedite alla pastorizia, una delle più grandi nell'Africa orientale. Gli stessi che a Makara hanno preso il controllo della città di Bentiu, un centro petrolifero nevralgico nel nord del paese. In questo momento la situazione nel paese è carica di speranze perché il cessate il fuoco sta reggendo. Molti sudanesi sono speranzosi davvero perché si sta andando verso un processo di pace che porti a trovare un accordo fra le due fazioni, che nel corso di questi ultimi tempi hanno portato guerra e distruzione nel paese. Anche perché il paese vive in una condizione di arretratezza. Io sapevo perfettamente dove stavo andando e cosa avrei incontrato. C'è stato un momento, quando è stato firmato il cessate il fuoco, in cui ho provato una gioia incredibile, mista al timore di provarla. Perché prima di questa tregua, devi credermi, le condizioni in cui vivevano le persone era terribile. Mancava tutto. Ogni settimana i guerrieri arrivavano a saccheggiare i villaggi. L'unica cosa è che dopo questo conflitto noi abbiamo migliaia di sfollati. Able to evacuate those children and the staff from Palochi Sigura. Yeah, actually, you know, people who are out of South Sudan. Sì, questa è stata la prima volta. Ero nel villaggio di SOS Bambini a Malakal. Ero in classe con 33 bambini. A un certo punto sono arrivati i ribelli, armati. Hanno detto che era l'ultima volta che li vedevamo e abbiamo capito che ci avrebbero uccisi tutti. Prima di quella volta c'erano state diverse incursioni, con violenze, minacce, rapine. Ma quella volta i ribelli avevano detto esplicitamente che avrebbero ucciso tutti. Allora abbiamo deciso di scappare. Abbiamo corso coi bambini lasciandoci dietro il rumore delle granate, le grida dei soldati che ci inseguivano, il rumore degli spari. Poi ci siamo buttati nel fiume Nilo e abbiamo iniziato a nuotare. I bambini piangevano. Il fiume era pieno di coccodrilli. C'erano delle barche e i bambini sono saliti a bordo. Giunti a riva, alcuni bambini sono rimasti con le loro famiglie d'origine e altri hanno continuato la fuga. Ci siamo spostati da un piccolo villaggio a un altro, Valsilouk, Fashoda, Kodok e Melut. Giorni e giorni di cammino. Sono stati momenti terribili. Avevo anche perso ogni contatto con la base. The fight has also, you know, had now a tribal line. So people are now being killed based on their ethnicity, depending on the groups who are supporting the government or the other side. Poi finalmente siamo giunti a Paloic, a 2000 chilometri di distanza da Juba. Abbiamo trovato rifugio nel campo di una compagnia petrolifera. Ricordo solo soldati ubriachi, poco cibo, e i bambini che piangevano disperati. Mi sono sentito fallito come custode dei nostri bambini. Sembrava che niente di ciò che dicessi alleviasse le loro pene. Poi finalmente un aereo, tutto per noi. Ora siamo qui nella capitale, al sicuro. I bambini sembrano più sereni e il mio unico sogno è che dimentichino e riprendano a vivere. My love in the night, sail away, far away. It's with yesterday's true wisdom, you will conquer, you'll break away. Oggi i bambini salvati da Gabriel Illayer sono sereni. Molti si sono ricongiunti alle loro famiglie. Quasi tutti ricordano quel viaggio, quella fuga, come un momento triste, illuminato solo dal sorriso del loro maestro. Dopo oltre 50 anni di conflitto, due guerre civili e milioni di morti, il Sud Sudan, nero e in gran parte cristiano, ha votato il 9 luglio del 2011 per la secessione dal nord, arabo e musulmano, diventando così il paese più giovane del mondo, con una popolazione di circa 11 milioni di persone, pari circa a quella della Francia, senza sbocchi sul mare, carente di infrastrutture, ha il più alto tasso di mortalità infantile e un tasso di analfabetismo pari al 73%. La sua economia dipende quasi interamente dalle esportazioni di petrolio. Quella che vi abbiamo raccontato è la storia di una prima volta, molto diversa da quelle che normalmente affrontiamo, ma aveva senso condividerla. La prima volta termina qui. Vi ringrazio per essere stati con noi. L'appuntamento è per domenica prossima, sempre alle 13.30. Potete scriverci all'indirizzo laprimavolta@radio24.it. Buona giornata a tutti, da Cristina Carpinelli. You're divine, you are woman, you're divine. I'm a woman. Ayo, sing a song. Ayo, oh, Uteni.